Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Velocemente la mail unabusoalgiorno@radio24.it, il nostro sito radio24.it, in cui trovate la possibilità di ascoltare tutte le nostre puntate. Infine il mio blog Guardie o Ladri lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, oggi parliamo di una cosa molto interessante, molto importante. Problema dei pendolari, che si sono visti cancellata, soppressa qui in Lombardia una fermata, la fermata Dirò, nella tratta che unisce Milano Centrale a Torino e viceversa. Quella fermata è stata soppressa, sostituita con quella di Rho Fiera, doveroso, importantissimo, perché la fiera è una cosa vitale per l'economia lombarda e dell'Italia tutta, ma che dista a 4 chilometri dalla città. Allora, noi per parlare di questo problema, che è esemplificativo del problema di tutti i pendolari, abbiamo chiamato innanzitutto il nostro radioascoltatore che ci ha fatto presente il caso. Buongiorno Castoldi. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Abbiamo chiamato l'assessore regionale ai trasporti del Piemonte, il dottor Borioli. Buongiorno dottor Borioli. Buongiorno. E il sindaco di Rho, Roberto Zucchetti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. Avremmo anche chiamato, anzi l'abbiamo chiamato, l'assessore lombardo ai trasporti Raffaele Cattaneo, è stato invitato a partecipare ma evidentemente troppo indaffarato in cose più importanti ha rifiutato il nostro invito. Ovviamente i microfoni sono sempre aperti quando vorrà intervenire, ma di fatto ha rifiutato l'invito. Ognuno tragga le sue conclusioni. Allora Castoldi, che cosa è successo il 14 giugno del 2009, quindi quasi un anno e mezzo fa? Sì, si è trattato di, appunto, io credo un evento che è molto in sintonia con la vostra trasmissione. Credo che sia un esempio di abuso nei confronti, appunto, dei cittadini, nel momento in cui delle logiche interne tra amministrazioni pubbliche, più o meno lecite o illecite come logiche, prevalgono su i bisogni di spostamento, appunto, delle persone. In qualche modo è come se si fosse dimostrato il paradosso di Trenitalia, per cui e del trasporto ferroviario pubblico, per cui i treni funzionerebbero benissimo se non ci fossero i viaggiatori. Ecco. Peccato che ci sono i viaggiatori. Allora, il caso è chiarissimo, insomma, fermata, soppressa, migliaia di pendolari in gravissima difficoltà. L'assessore regionale ai trasporti della sua regione ha deciso di non intervenire. E quindi questo io lo faccio presente, perché invece l'assessore Borioli Daniele della Regione Piemonte la faccia ce la mette, quindi innanzitutto grazie per questo Borioli. Grazie a voi. Ecco, secondo, un accordo che credo sia assolutamente in linea con gli interessi della Regione Piemonte, però ci dica lei Borioli. Guardi, brevissimamente, io rispetto molto diciamo i lamenti per i disagi che i pendolari, a cominciare dall'ascoltatore che ha chiamato prima, vivono, però vorrei dire che noi siamo partiti proprio per far fronte alle esigenze evidenziate dall'utenza, a suo tempo circa la totale inaffidabilità sul fronte della puntualità del servizio tra Milano e Torino. Questa è la ragione che ci ha portato a valutare, su suggerimento del gestore del servizio, cioè di Trenitalia, l'opportunità di trasferire a Rho Fiera la fermata su Rho, perché questo veniva giudicato dai tecnici un modo per recuperare puntualità, e infatti tutti i treni che oggi si attestano su Rho Fiera viaggiano più puntuali. Quindi, ecco, mi pare di, diciamo, siamo partiti da una ragione, certo, di questo genere, certo. Non da altri inconfessabili motivi. No, ma assolutamente, così come credo che siate partiti anche dalla considerazione di privilegiare dal vostro punto di vista, in maniera direi sacrosanta e legittima, la puntualità per i vostri pendolari, cioè per quelli che partono da Torino e si recano in Lombardia, Milano, è giusto? Certamente questa è stata l'opzione principale. Devo dire che il nostro ragionamento è stato che comunque le performance di puntualità su Milano di un treno riguardino in qualche modo anche gli utenti lombardi, cioè quelli che salgono oltre il confine piemontese. Aggiungo soltanto una cosa, e cioè che in questa scelta, perché voglio dirlo, insomma, noi abbiamo fatto prima dei passaggi tecnici che hanno fatto i funzionari e i dirigenti della regione Piemonte con quelli della regione Lombardia e i due compartimenti di Trenitalia, e nessuno ha evidenziato che sussistessero dei particolari problemi. Questo è importantissimo quello che lei ha detto, perché da quello che noi avevamo già appreso nei contatti con il vostro assessorato, diciamo così, nei colloqui della nostra redazione con i vostri uffici, abbiamo saputo che voi siete stati solerti nel contattare la regione Lombardia, ma che la regione Lombardia, come ha detto Picchi a Radio 24, ha detto Picchi anche all'assessorato regionale dei trasporti del Piemonte. Giusto, Borioli? Sì, sì, noi abbiamo studiato appunto insieme a loro. Esatto, infatti. Benissimo, quindi l'assessorato regionale ha detto così va bene quello della Lombardia. Quindi purtroppo, caro assessore Cattaneo, sarebbe stato quanto mai fondamentale la sua presenza. Allora, mi rivolgo al sindaco di Rho. Rho è una città importantissima, per chi non conosce Milano e Lombardia, io ho imparato a farlo da quando vivo qui, insomma, voglio dire, è alla periferia di questa metropoli, c'è la fiera, insomma, è una zona veramente importante. Caro sindaco di Rho, Roberto Zucchetti, qual è stata la vostra, come dire, preoccupazione? Come vi siete fatti parte attiva per difendere i diritti dei pendolari che proprio al centro della vostra città volevano fermarsi e non volevano invece andare a 4 chilometri di distanza, vale a dire a Roffiera? A lei la parola, Zucchetti. Abbiamo cercato di impostare la cosa ragionando e lasciando fuori la politica. Nelle sue battute, io capisco che l'assessore non ha intervenuto, la sua trasmissione può aver irritato, ma non aiutano a risolvere i problemi. Mi scusi un attimo, Zucchetti, non mi colga in cose che a me sono carissime. A me della politica me ne può fregà de meno, no, mi lasci concludere. Tanto che non so e non voglio sapere né lei quale giunta ha, né quale sia il partito di riferimento di Borioli, e tantomeno quello dell'assessore Cattaneo. Della politica me ne può fregà de meno, lo dico in romano, in romanesco, nella mia lingua di cui sono fierissimo. Ci ho detto, proseguo il suo ragionamento. Non proseguo in dialetto perché altrimenti non tutti capirebbero. Esattamente, però non me ne può fregare meno, lo conoscono in tutta Italia. Prego. Abbiamo guardato l'aspetto tecnico. Sì. Allora, portare una fermata dove non c'è passeggeri, non ci sono passeggeri, è chiaro che il treno è più puntuale, non sale e scende nessuno. Ecco, ma questa appunto è una visione ingegneristica delle questioni. Ma io infatti le ho chiesto che cosa fa lei per i suoi pendolari. Noi vogliamo assolutamente riportare la fermata in centro a Roma. Bene, perché bene, qui bene arrivano tutti gli autobus. Bene. Qui si valorizza il trasporto pubblico, e quello che abbiamo cercato di fare con una serie di incontri anche con l'assessore Borioli, quindi dopo quel primo parere favorevole ci siamo visti e rivisti e abbiamo lavorato molto su questa cosa, è cercare di ottenere che tutte e due le fermate vengano fatte. Questo fa allungare i tempi di percorrenza di qualche minuto, però il centro-centro, centro Torino, centro Milano è già servito dall'alta velocità. Nelle aree metropolitane, se si fanno più fermate entrando nella zona densamente abitata, si serve meglio l'utenza. Ecco, io queste sono le risposte che voglio da un politico. A me della politica, caro il mio sindaco Zucchetti, non me ne frega niente. Cattaneo deve venire qui non perché ha una divisa politica, ma perché è stato eletto dai cittadini. Chiaro, Zucchetti? Sì, è stato chiaro. Benissimo, perfetto. Allora, continuo a pensare che questa accentuazione personale sia dannosa per la soluzione del problema. No, non è dannosa, perché io chiamo le persone di interloquire. Chi rifiuta l'interlocuzione non la rifiuta con me, Zucchetti. Io sono soltanto un giornalista, la rifiuta con le persone che pagano i servizi, non con me. A me, se Cattaneo non mi vuole parlare, a me da un orecchio mi entra e dall'altra mi esce. Borioli, quindi voi siete interessati a continuare il vostro dialogo con il sindaco di Rho e con l'assessore Cattaneo? Guardi, io credo di aver dato una prova tangibile, tant'è che rispetto all'orario di giugno, noi a seguito degli incontri avvenuti con i pendolari e con gli amministratori di Rho, oltre che con la regione Lombardia, abbiamo ripristinato una serie di fermate su Rho Centro. Bene. Io non sono neppure chiuso a riconsiderare altre ulteriori opzioni. Voglio solo dare un elemento. Noi abbiamo chiesto ai nostri pendolari, abbiamo fatto un sondaggio, gli abbiamo chiesto di esprimersi e abbiamo rilevato che c'è un'indicazione significativamente maggioritaria del mantenimento della fermata a Rho Fiera, e ne dobbiamo tener conto. Questo non vuol dire che non possiamo che non considerare. Prendete, certo, certo, questo mi fa piacere. Siamo qui per parlare dei problemi, cercare di risolverli. I nostri microfoni sono aperti, quando Cattaneo vorrà intervenire sarà un piacere intervistarlo. Grazie ai nostri interlocutori in regia Pietro La Corte, in studio Elisabetta Fusconi e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.